TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Criminalità a Trieste è il vertice della classifica delle denunce, Pordenone tra le migliori sul versante della sicurezza, la classifica del Sole 24 Ore su dati del Ministero dell'Interno. Trieste festeggia il patrono in cattedrale solenne pontificale con il Vescovo Trevisi al centro dell'omelia, l'educazione dei giovani. In prefettura Udine la consegna di 25 onorificenze a nuovi ufficiali, commendatori e cavalieri al merito della Repubblica. La scomparsa a Udine di Giovanni Galeone, tecnico amatissimo in Friuli, fu il tecnico dell'ultima promozione in Serie A dell'Udinese, ricordo di Andrea Carnevale. Pasolini e l'immaginario collettivo, un convegno a Casarsa con oltre 500 studenti e i loro insegnanti. Stasera la chiusura delle celebrazioni del cinquantenario con Roberto Vecchioni. Il San Giusto d'Oro alla Cappella Underground nacque come cineclub quasi 60 anni fa, targa speciale al giornalista Paolo Condò. L'anatra all'arancia apre la stagione di prosa del comune di Monfalcone, la commedia sarà poi a Udine, Codro e poi Maniago. 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Maria Spezia. I delitti commessi e denunciati in Italia sono in aumento e la crescita riguarda soprattutto la microcriminalità. L'indicazione emerge dalle statistiche della Banca Dati Interforze del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, fornita in esclusiva al Sole 24 Ore, che oggi pubblica una serie di pagine speciali. Tra le città della nostra regione, Trieste è la peggiore, dodicesima in Italia, mentre i numeri indicano Pordenone come la più sicura e al centesimo posto. Una delle città meno sicure d'Italia, Trieste, da quello che emerge dall'indagine annuale del Sole 24 Ore su dati del Ministero dell'Interno, è la dodicesima città italiana con più crimini denunciati, in crescita rispetto all'anno scorso, e la stragrande maggioranza non riguarda immigrati o minori. Nel 2024 le denunce complessive registrate nel capoluogo sono state 10.440, 800 in più rispetto al 2023, 4.578 denunce ogni 100.000 abitanti, di poco fuori dalla top 10, ma con primati poco invidiabili. Si conferma infatti in testa per violenze sessuali, cresciute da 55 a 70 casi, e guadagna, se così si può dire, la maglia nera per sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile. Per questi reati le denunce sono passate da 11 a 18, 7,9 per ogni 100.000 abitanti. E Trieste sarà al primo posto in classifica anche per frodi informatiche e truffe, 1.750 i casi. In crescita anche i reati legati agli stupefacenti, allo spaccio, ai danneggiamenti e alle rapine, ben 234 quest'ultime, 80 in più rispetto al 2023. Il sindaco di piazza però minimizza. A Trieste denunciano qualsiasi cosa, mentre in altre città, dico del sud per non nominare le città, non vengono fatte le denunce. Qua se uno guarda male una ragazza, magari questo lo denunciano. Rimangono molte anche le estorsioni, 65, mentre la città è nella media per i furti. Non compare nella top 10 per crimini commessi da immigrati o da minori. Al contrario di Udine, nelle tre dove le denunce per under 18 sono in netto aumento. La città e la provincia sono però molto più sicure, 67esima, anche dopo Gorizia, 50esima nell'indice generale, con denunce che crescono di poco. 74 però i casi di violenza sessuale, erano 52, anche se il dato può essere visto come un maggior coraggio da parte delle donne nel denunciare. L'ex provincia a cui si riferiscono i dati ha fatto registrare poco più di 15.000 denunce complessive, che crescono anche negli altri due territori della regione. L'Isontino, metà classifica con 4.500, di cui 200 per lesioni. Pordenone invece la quinta provincia italiana con meno reati, 7.300 le denunce, un centinaio in più rispetto all'anno scorso, di cui più di una su cinque per truffe e frodi. Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Trieste oggi festeggia il patrono San Giusto, l'educazione dei giovani è stata al centro del solenne pontificale celebrato in cattedrale dal Vescovo Trevisi. In una chiesa per una volta gremita di fedeli, oltre che di autorità e di rappresentanti di altri culti, il corteo dei sacerdoti della diocesi diretti all'altare viene accolto dalla musica di Sofianopulo e l'inno a San Giusto Aquileiese, martire valoroso nel cuore della giovinezza, recita il testo che racconta la sua fine. Anche San Giusto è il chicco di grano del Vangelo di Giovanni che, se caduto in terra, non muore, non genera frutto. La parabola è il filo conduttore dell'omelia incentrata sull'educazione dei giovani, un'educazione che deve essere corale, un modo concreto, dice dal pulpito il Vescovo Trevisi, per far diventare il Vangelo gesto per impedire che l'acqua ristagni nel si è sempre fatto così. educazione che non bandisce il dubbio, educazione alla speranza cristiana, educazione in grado di nutrire la vita interiore, perché i giovani hanno bisogno della nostra vita interiore. Se ci vedono appassionati solo alle cose frivole, si chiede il vescovo, come fanno a capire che cosa conta nella vita? Trieste, Alessandra Zigaina, TGR, Friuli Venezia Giulia. Questa mattina a Trieste anche la cerimonia dell'alza bandiera per la redenzione di 107 anni fa con lo sbarco dei bersaglieri. Alle 16.30 ci sarà l'arrivo della staffetta tricolore in Piazza Unità, staffetta proveniente dal piazzale di San Giusto. A seguire la deposizione di corone a scala reale e alle 17 la Maina Bandiera solenne. Diverse cerimonie anticipano oggi la giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, che si celebra domani. Deposizione di corone questa mattina, ronchi dei legionari e un corteo nel pomeriggio a Udine, dove invece questa mattina in prefettura sono state consegnate le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Dall'economia alla pubblica sicurezza, dal volontariato alla sanità, ciascuno ha dato a suo modo il proprio contributo per la società tra coloro che hanno ricevuto le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, il conferimento da parte del Capo dello Stato, la consegna per mano del prefetto di Udine Domenico Lione e dei sindaci dei comuni di residenza. 25 premiati. Il nome più conosciuto è quello di Giovanni da Pozzo, presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine, tra i vari incarichi ricoperti. Poi Sergio Burricelli, a capo della comunità di 370 volontari del soccorso alpino speleologico regionale, pergamena anche per Paolo Petizzolo, console onorario della Cechia, storico presidente dell'associazione Mitteleuropa. Tra le 5 donne premiate c'è Katia Mignogna della Onlus Arte Libro, impegnata da 40 anni nell'inclusione delle persone disabili. Ha raccolto negli anni oltre 500.000 euro in beneficenza. Franca del Frate, fondatrice dell'associazione Amistal Disu, nata a Gonars dopo la morte del figlio in un incidente stradale. Impegnata nella tutela e nell'insegnamento della parlata di origine tedesca di Timau, invece, la maestra Velia Plotzner, anche lei premiata. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. La Guardia di Finanza di Gorizia ha individuato un gruppo criminale che produceva e commercializzava abiti riportanti la falsa indicazione Made in Italy, ma in realtà prodotti in Romania. L'indagine è nata da controlli del territorio, identificando dapprima un autocarro con targa rumena che trasportava 1.600 capi di abbigliamento da donna con l'etichetta appunto Made in Italy, ma in realtà prodotti oltre confine. L'attività investigativa ha poi fatto emergere un traffico di abiti di una fabbrica da cui la merce veniva commercializzata attraverso 2 aziende con sede in Lombardia. Le perquisizioni eseguite nelle 2 aziende italiane dai loro clienti in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto hanno portato al sequestro di quasi 2.000 capi di abbigliamento con false indicazioni di origine. Negli ultimi 5 anni l'attività illecita è riuscita a immettere in commercio sul mercato italiano ed europeo quasi 3 milioni di capi con false indicazioni d'origine. Sono 5 i denunciati per frode che dovranno rispondere dell'accaduto. Crediti, prestiti e microcredito, la via per imprese e famiglie, una guida alla gestione del credito per far crescere la propria impresa o realizzare i progetti personali e familiari è il titolo dell'incontro che intende fornire risposte concrete a chi desidera comprendere i segreti del credito bancario e del microcredito, sotto la lente le opportunità a disposizione per finanziare la propria attività, sviluppare nuovi progetti o realizzare sogni personali. Per microcredito personale si indica un finanziamento di piccolo importo, in genere fino a 10.000 euro, destinato anche a persone in condizioni di vulnerabilità economica e sociale, come disoccupazione temporanea o calo del reddito. Nell'ultimo anno la sede regionale del principale operatore di microcredito italiano ha visto crescere del 18,4% il numero di pratiche, con una punta del 43,6% nel goriziano e un importo medio di 7.500 euro e una punta di 8.200 pratiche in area giuliana. L'appuntamento organizzato da Confartigianato Imprese Udine in collaborazione con la sede di Trieste della Banca d'Italia prevede l'intervento di esperti di settore per approfondire approfondire i principali strumenti finanziari, rispondere a domande e chiarire dubbi. Appuntamento a Gemona, a Palazzo Fantoni, alle 18.15. 12.40, uno sguardo alla situazione del tempo. Dopo le piogge della notte abbiamo cielo sereno su tutta la regione. Le temperature registrate alle 11, a Trieste e a Pordenone 17, a Udine 17, 5 decimi, a Gorizia 18, nell'area montana a Tolmezzo 12, a Tarvisio 9, a Sappada 6 gradi e 5 decimi, sul Piancavallo 10, a Forni di Sopra 11 e 5 decimi e in quota ancora abbiamo 1,5 gradi sul Lussari, sullo Zoncolan 5, sulla costa a Grado e a Lignano 18. Le previsioni a cura dell'Agenzia regionale di protezione ambientale per oggi: c'è in prevalenza sereno con bora moderata a Trieste, in attenuazione dal pomeriggio. Torniamo a Udine per la morte dell'allenatore di calcio Giovanni Galeone, un tecnico tra i più amati per il calcio spettacolare e imprevedibile che sapeva far fare alle sue squadre. All'Udinese l'ultima promozione in A è stata la sua, tra i protagonisti di quella cavalcata c'era Andrea Carnevale. È un grande ricordo, intanto faccio le condoglianze alla famiglia, alla moglie, mi dispiace molto, un uomo che ci mancherà non c'è dubbio. Giovanni era un uomo di calcio, faceva giocare le squadre molto bene e un uomo che sicuramente era molto schietto, di grande personalità, una persona autentica. Poi il calcio, insomma, che oggi tutti gli allenatori ne fanno suo, Galeone già tantissimi anni fa, insomma, faceva giocare bene le squadre a Pescara, a Udine. Qui avevamo un attacco super 4-3-3, come insomma ha sempre fatto il mister, e abbiamo fatto una promozione straordinaria nel 94-95. Se oggi l'Udinese è ancora in Serie A grazie anche a Giovanni Galeone, perché insomma nel 95 abbiamo fatto una promozione veramente molto dura, molto difficile, e quindi Galeone è stato veramente un grande personaggio del calcio italiano. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Passiamo ai 50 anni dalla morte dell'intellettuale friulano Pierpaolo Pasolini, ucciso al Lido di Ostia, a Casarsa. Dopo il ricordo di ieri al cimitero e l'avvio di un laboratorio transfrontaliero, oggi tanti i giovani al convegno internazionale nel teatro che porta il suo nome. Più di 500 ragazzi e ragazze delle scuole superiori del Friuli Venezia Giulia, Veneto e Istria sono riuniti al Teatro Pasolini di Casarsa per il convegno Pasolini e l'immaginario collettivo, curato da Maura Locantore. Locantore è coordinatrice del convegno e segretaria del Comitato Nazionale per il Centenario di Pasolini, istituito dal Ministero della Cultura. È un Pasolini nuovo, per alcuni versi rivoluzionario, che proviamo a consegnare a tantissimi ragazzi presenti qui al Teatro Pasolini di Casarsa, ma è soprattutto il Pasolini che ha dato loro la lezione più importante: la scoperta della verità, la capacità di indignarsi. Sul palco presenze istituzionali ed esperti pasoliniani, con rappresentanti anche da Bologna e Roma. Pierluigi Sanna è vice sindaco metropolitano di Roma Capitale. Se tutto è iniziato in Friuli è proseguito a Bologna e a Roma, che Pasolini ha la massima espressività artistica, e a Roma purtroppo troverà il suo epilogo. Non ci può essere una memoria di Pasolini che non sia condivisa fra queste tre parti importanti d'Italia. In sala anche le scuole italiane di Pirano, Isola e Capodistria. Dora Manzo è docente al ginnasio di Pirano. Attraverso questo progetto, coordinato da Martina Voci, viene presentata la figura di Pierpaolo Pasolini ai ragazzi, proprio per far conoscere ai ragazzi questo scrittore, questo artista che non tutti conoscevano. Leonard Lazar, studente di Pirano. Pierpaolo Pasolini è libertà in un certo senso, si prende la volontà di scegliere cos'è la vita e di dimostrare in che maniera le cose, anche diciamo un po' cupe, un po' assurde, ci riempiono. Questa sera alle 21 Roberto Vecchioni concluderà le celebrazioni con la Lezio Pasolini, poeta dell'universalità umana. Casarsa della Delizia, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il San Giusto d'Oro 2025 è stato assegnato alla Cappella Underground, punto di riferimento imprescindibile per il cinema a Trieste. La targa speciale del premio va invece al giornalista Paolo Condò, 66 anni, per un trentennio alla Gazzetta dello Sport, negli ultimi anni volto di Sky e prima firma del calcio a Repubblica e poi al Corriere della Sera. Il riconoscimento giunto alla 59esima edizione viene assegnato dalla sua stampa Friuli Venezia Giulia. La Cappella Underground è con il Film Studio di Roma uno dei due più antichi cineclub italiani. La sua attività è iniziata nel 1969 nella sede storica di Via Franca e oggi si tratta di una realtà che organizza festival come quello di Fantascienza appena concluso e incontri, gestisce il cinema Ariston e una grande mediateca. La sua attività ha generato un indotto di settore che oggi comprende le produzioni di film e video e tutti i mestieri del cinema. E a presiedere oggi la Cappella Underground è Chiara Barbo, che è stata allieva di Alberto Farassino, si è laureata a Trieste in storia del cinema, è critica e produttrice, ha lavorato a lungo a Roma e New York prima di tornare a Trieste qualche anno fa. La storia stessa della Cappella Underground, le chiediamo, primo cineclub o tra i primi cineclub in Italia, ci dice che in questo ambito la città non ha mai vissuto un ruolo marginale. E così, e che storia si tramanda della Cappella lontano da Trieste? La storia della Cappella è importante e tutti i principali registi, attori, critici cinematografici in Italia conoscono, hanno frequentato, hanno collaborato con la Cappella Underground, quindi è una realtà molto importante, continua ad esserlo e di questo ne siamo contenti. Cosa ha significato la Cappella per Trieste e allargando lo sguardo per la regione, anche per quello che vediamo oggi del lavoro del cinema che si fa dalle nostre parti? Ma la Cappella Underground a Trieste rappresenta e ha rappresentato sempre il cinema, la cultura cinematografica in città. È conosciuta anche in regione, anche per la collaborazione con le altre realtà che si occupano di cinema in regione. È un'associazione che anche adesso, con il cinema Ariston, la Mediateca di Via Roma e tutte le attività che facciamo durante l'anno con le scuole, le università, le rassegne, gli eventi, promuove, crea, propone il cinema in città, nelle periferie. Quindi è un'associazione che ha sempre dialogato con la città. Avete appena chiuso il Festival di Fantascienza, che è stato uno dei più partecipati di sempre, ma siete già al lavoro su cosa? Siamo al lavoro innanzitutto con la nuova stagione del cinema Ariston, quindi al di là della programmazione regolare che avremo, eventi, ospiti, attività che sono non solo dentro al cinema ma anche direi intorno al cinema come tipo di programmi. E c'è una nuova idea per una rassegna per l'anno prossimo di cui però non posso ancora dire niente, ma lo vedrete nei prossimi mesi. E poi tutte le attività che sono tante proprio perché ci teniamo ad incontrare anche un pubblico e una parte dei cittadini che magari ancora non ci conoscono o non ci frequentano, quindi stiamo lavorando proprio in questo senso. Al Teatro Bonezzi di Monfalcone si apre la stagione della prosa con un grande classico anni 70, L'anatra all'arancia, di cui Ugo Tognazzi e Monica Vitti furono gli indimenticabili interpreti cinematografici. Oggi Emilio Solfrizzi e Irene Ferri sono i protagonisti di questa commedia, la cui regia è firmata da Claudio Gregori, il Greg del celebre duo. Tradimenti e cinismo in una coppia di lungo corso lasciano spazio all'amore che ritorna proprio alla vigilia della separazione. L'anatra all'arancia sarà in scena a Monfalcone anche domani, prima di spostarsi da mercoledì a venerdì al Teatro Nuovo di Udine e nel fine settimana a Codroi, poi a Maniago. Cormons si è classificata tra i 10 comuni italiani più virtuosi nell'abbinare un patrimonio enogastronomico d'eccellenza con l'impegno nella raccolta differenziata dei rifiuti. Il premio è stato consegnato alla Fiera di Milano nell'ambito della manifestazione Golosaria. Il sindaco di Cormons, Roberto Felcaro, appena rientrato da Milano, condivide con i suoi cittadini sul sagrato di Piazza Libertà il nuovo successo ottenuto dalla città, mostrando l'attestato del premio Gusto Circolare, istituito per la prima volta quest'anno nell'ambito dell'evento fieristico Golosaria, giunto alla 20ª edizione. Promosso dalla guida enogastronomica Il Golosario e dal Consorzio Nazionale Recupero e riciclo degli imballaggi a origine cellulosica, il premio ha selezionato i 10 comuni italiani più attivi ed efficienti in due ambiti che solo apparentemente possono sembrare distanti, ma in realtà concorrono entrambi a delineare la qualità della vita in una comunità. Il primo ambito è quello della corretta gestione del ciclo dei rifiuti, il secondo invece esplora il livello qualitativo delle produzioni enogastronomiche. A ritirare il premio, oltre all'amministrazione comunale, 8 produttori locali invitati. La motivazione della giuria evidenzia Cormons come epicentro mondiale per i vini bianchi e giardino del gusto con una concentrazione impressionante di eccellenze, dal prosciutto affumicato ai formaggi biologici. Sentiamo il sindaco di Cormons, Roberto Felcaro. Il premio Golosaria dimostra naturalmente il fatto che Cormons è un comune virtuoso per la qualità della vita, per la sua attrattività. La cura e il mantenimento del territorio è una base importantissima per la proliferazione di eccellenze enogastronomiche, nella crescita delle realtà esistenti, ma anche come attrattiva per nuove realtà che pian piano stanno arrivando sul nostro territorio. È una questione di spirito di appartenenza. I nostri cittadini credono alla crescita del nostro territorio, partecipano ognuno per quelle che sono le proprie possibilità, ma sicuramente questo insieme poi dopo porta a questi risultati. È una visione che tutti quanti dobbiamo portare avanti per far crescere e alzare l'asticella di volta in volta per la nostra città. Cormons, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. A Udine al via oggi i lavori di rifacimento del manto stradale in via Piave, via Trento e viale 23 marzo. 3 le fasi di intervento, la prima da oggi al 15 novembre coinvolgerà via Piave nel tratto fra piazza Patriarcato e via Aquilei e prevede il risanamento della sede stradale eliminando fessure e irregolarità e realizzando appunto un nuovo asfalto. Per questo sarà vietato il traffico a tutti i veicoli e saranno garantiti gli accessi ai frontisti di via della Prefettura e via Marinelli. La seconda fase dal 5 al 20 novembre riguarderà invece via Trento e nella terza fase dal 12 al 21 novembre i lavori cominceranno su viale 23 marzo. In chiusura alcuni appuntamenti per il pomeriggio, si intitola La conquista del castello, la visita gioco della durata di 90 minuti che conduce i partecipanti in un'avventura tra cortili, camminamenti e sale interne del castello triestino di San Giusto, trasformando la visita in un'occasione per scoprire storie, leggende e segreti dell'antica fortezza in modo coinvolgente. L'iniziativa dedicata a giovanissimi tra i 6 e i 12 anni che dovranno essere accompagnati da un adulto è in programma alle 15, prenotazione obbligatoria allo 040 98 92 032. Festa dell'Egeo, ricette dalla montagna al mare, questo è l'appuntamento di oggi condotto dalla cuoca e food writer Marianna Leiva di Tachi, incluso nel ciclo Trieste Incroci letterari, viaggio nell'anima multiculturale della città che propone storie e autori sia del Friuli Venezia Giulia sia dall'estero, dalla Slovenia alla Grecia. L'autrice di discendenza cretese, dopo lunghi viaggi ha lavorato nella ristorazione per poi diventare capo cuoco in un ristorante di Londra alla sede della comunità greco-orientale in riva 3 novembre, l'appuntamento alle 17.30. È tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Maria Spezia, Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Marco Ferrito e Mauro Ciccarelli, ha collaborato in redazione Samantha Gon. 12.52 minuti, 30 secondi, prossima edizione alle 15. Grazie per la vostra attenzione, buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.